Ho notato che rispetto ai primi due album c'è stato una pausa raddoppiata rispetto alla preparazione di, come mai 4 anni per registrare, o 3 anni e mezzo, 4, insomma, per far uscire Abdita. La prima ragione era che con Romanticism si è un po' dilatata il periodo che abbiamo suonato live. Ci sono stati un pochino più concerti, siamo andati di qua e di là. E la seconda ragione è stato il fatto che, appunto, di conseguenza al live c'era meno tempo per scriverlo. E la terza è stata che una volta scritto il disco, c'è stata una fase di scouting in cui noi abbiamo cercato più seriamente un'etichetta all'estero che fosse interessata, e è stato anche via dell'altro tempo. Non volevamo solo, perché comunque Tempesta è una realtà straordinaria. Di persone veramente, veramente positive, mm-hmm. che si portano come amici rispetto a quello che tu. Volevamo però qualcuno che ci supportasse all'estero, perché crediamo che questa musica, soprattutto nel attuale della musica italiana, possa avere magari, di farla sentire anche fuori. Questo periodo anche di ricerca, chiamala amministrativa, chiamala proprio ricerca promozionale, ha portato un sacco di tempo. Abbiamo avuto che fare con il nostro primo contratto discografico, e quindi anche questo ha avuto proprio necessità di tempo per controllare carte, bla bla bla, insomma. Sì, sì, beh, certo. E anche per questo immagino che che ti dedichi al canto in inglese piuttosto che alla lingua madre, perché immagino che vogliate espandere la vostra musica anche a oltre confine, insomma. Esatto, quello è il nostro obiettivo, vediamo cosa succede. Come esperienze all'estero fino adesso, come avete suonato fuori dall'Italia? Non abbiamo praticamente mai suonato fuori dall'Italia. Abbiamo fatto una data a Berlino durante il tour del primo disco. È stata una serata molto bella, però è stata una one-off fino adesso nel nostro periodo assieme. E quali sarebbero le terre che vorreste andare a toccare in futuro? Dove vi piacerebbe andare a suonare? Ma non abbiamo degli obiettivi. Secondo la nostra sensazione tutto il centro Europa sicuramente potrebbe fare a caso nostro, ma qualsiasi potrebbe essere la meta. Stiamo lavorando appunto sulla ricerca di qualche sbocco, di qualche agenzia, insomma, ci stiamo lavorando. No streets are rising. Volevo chiederti di... voi siete di Padova, giusto? Principalmente sì, in realtà siamo sparpagliati per il Veneto, poi recentemente, cioè alla fine dell'anno scorso, la nostra line-up è cambiata, però insomma, siamo sparpagliati, tre di noi sono della provincia di Padova, poi c'è uno che sta tra Padova e Vicenza, cioè ufficialmente in provincia di Vicenza, e altri due che provengono dalla provincia di Treviso. In ogni caso vedo che Padova, a Padova c'è un fermento vicino proprio alla sperimentazione, alla psichedelia, o addirittura un po' anche al primo prog di fine anni 60, primi anni 70. Sembra proprio che ci sia quasi un filo conduttore tra le varie band patavine per questa ricerca proprio di suoni non convenzionali e comunque di ricerca. Secondo te c'è una spiegazione riguardo proprio a questa tendenza, oppure proprio, non so, qualcuno ha iniziato questa serie positiva e altri gli sono andati dietro affascinati da questa bella proposta, diciamo? Ora, non so, cioè, non sono al corrente del filone specifico di cui mi parli, però Padova è stata una città molto piena di musica. Alla fine degli anni 60, Padova è una delle città, in una delle regioni all'epoca del beat in cui si faceva più musica. Il Veneto era ricchissimo di band giovanili, Padova era una delle città più ricche. E, anche però negli anni 90 Padova ha avuto un grande fermento a livello di rock, anche sperimentale, cioè nel senso artisticamente alto abbastanza di contenuti. C'erano molte band indipendenti, la scena indipendente era ricca. Mi ricordo quando facevo il liceo c'erano molti concerti nei centri sociali, erano molto seguiti. Un bel periodo per la musica italiana in genere, gli anni 90, e per Padova anche. Molte band, e credo che abbiano lasciato il segno nella generazione poi dei miei coetanei, e anche in quelli più giovani. Il filo conduttore che è rimasto credo sia quello del noise, della sperimentazione, del rock estremo, anche sicuramente con sfaccettature psichedeliche come quelle di cui parli. Però ha avuto magari dei periodi meno intensi, credo che proprio dopo il periodo di band come Redbone's Farm, One Dimension Man, che non sono direttamente ricollegabili a Padova, ma uno dei loro membri, Giulio Favero, era insomma proveniente da Padova. E, è proseguita con episodi altrettanto validi artisticamente, ma con magari meno luci puntate. Però sembra che adesso sia di nuovo ricca, insomma, di cose che stanno nascendo. Ci sono molte feste, ci sono locali che in qualche modo resistono. È una città che insomma sta in qualche modo rinnovarsi, anche se le serate mediamente una notte a Padova può finire anche presto come orario, però insomma è una città che ho sempre amato, anche se non ci ho mai vissuto. Comunque c'è del movimento rispetto ad altre città, diciamo, a livello musicale, e c'è qualche realtà diciamo che ci vuoi segnalare tra i gruppi che secondo te faranno strada, che magari non sono meno conosciuti, che possiamo tenere sott'occhio, oppure non so, qualche nome che ti viene in mente, insomma? Assolutamente, beh, loro sono una band in realtà di assoluti veterani, proprio contemporanei a quel giro di cui ti facevo memoria prima. Loro si chiamano Ultra Kelvin, sono un trio di estrazione noise, però con una grande poesia, in qualche modo. Recentemente hanno fatto uno split con una band americana strepitosa che si chiama Qui, con cui bazzicato, collaborato spesso anche Trevor Dunn. Era una band che era nata anche con la collaborazione di David Yeo dei Jesus Lizard, Con gli Ultra Kelvin, tra l'altro, sono fautori di una, di un'etichetta pazzesca che si chiama Macina Dischi, che cura edizioni indipendenti dall'alto valore proprio di edizione, nel senso che si erano inventati 10 anni fa di fare dei 10 pollici, un formato 10 pollici split, quindi da un lato un artista, dall'altro un altro artista, e con copertina in alluminio, cioè la copertina la porca era una lastra di alluminio di un millimetro serigrafata, pazzia totale proprio. Okay. Quindi Ultra Kelvin è un nome assolutamente da seguire, da cercare, quindi me lo segno sicuramente anche per le prossime puntate di app. The moon has, she shall be not tonight. They say she shall be not in rare. She'll be alive. Here, faithful lives in the air. wonder how it was. I won't run away, but you ask it when I leave. I'm feeling so old, where have they gone? Molto interessante, a parte che ogni album sembra magari un concept per quanto vi riguarda, sicuramente il secondo, Romanticism, che parlava appunto degli spazi urbani e di come, come si vive la città e come appunto anche certi angoli possono evocare delle emozioni ai cittadini di quel posto. Quindi era un po' un ode alla città, ecco, Romanticism. Certo. Quindi, e anche il primo lavoro era un concept, che tra l'altro è un titolo che mi ricorda la frase inglese "boys will be boys", non so se avete preso quella oppure se non mi ha allucinato. Allora, il titolo è la opera di geniale di Enrico, che era il cofondatore di questa band, che adesso non suona con noi, ha preso altre decisioni per quanto riguarda la propria vita, altre sagge decisioni, e rimane quindi simpatizzante, ma non è più nella line-up che puoi trovare sul palco. Lui era un grandissimo copywriter, anche se non lo sa, cioè lo sa, ma non è il suo lavoro, e ci sa fare con i giochi di parole. Inventò questo titolo perché una delle nostre passioni, uno dei nostri divertimenti dialettici era proprio quello di giocare con la femminilità nel nostro rivolgersi al pubblico, no? Anche nel nostro modo di scrivere i testi in qualche modo, e quindi ci piaceva costruire un disco di rock, nel nostro primo disco, immaginato per un ascolto femminile, che è un esercizio impossibile visto che siamo tutti maschi. e quindi ci piaceva giocare un po' con questa cosa della ragazza giovane con tutti i suoi, in tutte le sue difficoltà, insomma, le persone più giovani possono avere a che fare, e trasformare in una donna al contrario, quindi Women with the Girls è stato un parto tra i più riusciti di Enrico. Say I'll do, it's mine, you know, I mean you too. Apple trees, kids are seas, man out there, the water you drink. Here in Rome, you're smiling again. Here in Rome, you're just my slaves. Can I have your freedom? Can I have your freedom? Feels to be a man like me. Such strange things happen, believe me. Exciting, not easy. Now you dare to be so deadly young. You'll feel like a fool for God. Oh, you're just right for me. Right for that. Oh, you're just right for me.